stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi e restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me. Nel cielo.